Eh sì, siamo sempre noi, abbiamo ricominciato con Giovane Fuori Classe, il nostro programma per le punte dei talenti emergenti italiani. Beh, io penso che l'ho detto talmente tante volte che lo sappiate e quindi posso direttamente introdurvi il nuovo ospite che è 100.000 Carie. Ciao, ciao a tutti. Come stai? Tutto bene, tutto a posto. Giornata stanca, tornato da poco da scuola, tutto bene, dai. Yes. Allora, tu ti chiami Simone? Sì. Però hai scelto questo nome d'arte. Sì. Ho letto online che non ha un significato letterale. È vero. Però vuole comunicare qualcosa. Sì. Cosa vuole comunicare? Vuole comunicare tante cose e vuole comunicare che la musica non è un brand e che l'accozzaglia di nomi e di cose messe a caso, ok, può portare a un significato molto più grande di parole che in realtà hanno un senso. 100.000 Carie non ha un senso di per sé. Però uno può avere un'idea di quell'immagine e crearsela da solo. Certo, quindi... è come se fosse un contenitore dove metti dentro delle cose, delle emozioni, no? Sì, esattamente. Beh, io penso che un artista come te debba essere prima di tutto ascoltato. E quindi direi di lanciare subito una tua canzone, okay, che è dove non posso guardare il tuo ultimo singolo. Sì. Tu hai una tecnica vocale incredibile. Grazie, grazie mille. Ma hai studiato o sei nato con un dono? Dono, sono nato così. Non so se è nato bene o nato male, però niente studio, solo cercare tanto cuore. Cercare di raccontare le cose, quelle che si hanno dentro, che veramente hanno importanza nella vita. Sai, come timbro vocale mi ricordi un po' Ryan Adams, non so se nei tuoi ascolti, però... Guarda, gli ascolti variano molto, però ho un'idea di chi sia, ma non troppo, ti dico la verità. Tipo anni 2000, insomma, forse hai anche un riferimento generale a quel mondo più acustico rispetto alle cose electropop contemporanee. Sì. Dove non posso guardare il tuo ultimo singolo... Anche qui, come nel tuo nome d'arte, sei molto ampio. Sì. Cioè, se leggo il testo, mi evoca delle emozioni, però in generale, sia in questo che in Strappami la pelle a morsi, che dopo ascolteremo, proponi dei concetti dove l'ascoltatore può trovare la propria interpretazione. Però qui c'è un'eccezione, perché dici, in Via Ragazzi del 99, solo qualche cicatrice e polvere sotto le suole. Questa è una frase molto precisa. Perché? C'è qualcosa in via Ragazzi del 99? Allora, in Via Ragazzi del 99 è una storia lunga, ma che non sto a dilungarmi troppo. Via Ragazzi del 99 c'è il mio benzinaio di casa, quello che vado sempre, e io guido molto spesso la moto, e la notte quando tornavo per andare a casa, praticamente c'era questa strada che era di fianco al benzinaio e era sempre vuota. E quindi la cosa bella, un po' pericolosa, ma in realtà bella perché non c'era mai nessuno, è prendere i ragazzi del 99 la strada e farsela a 100 all'ora. Impazzo. Lo so, pazzia, mamma, scusa se mi senti, ma la cosa bella è che non c'era nessuno, strada enorme, e tu sfrecciavi e sentivi tutto il vento addosso, anche in estate bellissimo, e sentivi emozioni. Poi mettevi i piedi per terra e sentivi la polvere che è il terreno. Ma tu sei uno che quindi vive delle cose e poi si appunta magari sulle note del telefono, frasi, poi le metti insieme. Sì, molto spesso è così, le canzoni mie nascono così, idee a caso durante il giorno che poi unisco e faccio la canzone. Beh, quindi io ti immagino con un raccoglitore di frasi, che può essere benissimo una nota sul cellulare, sì, e poi suoni il pianoforte e la chitarra. Pianoforte, chitarra, poi ho suonato anche violino. Ah sì, sai che anch'io. Ah, ok, bene. Quando ero più piccolo, però. Anch'io, quando ero più piccolo. Poi la musica classica, però... musica classica è solito quella che fa iniziare tutti, solitamente, quando fanno un percorso. E quindi poi immagino un Simone che a casa con la chitarra trova una linea melodica e adatta le frasi a... Esattamente, cioè azzeccato in pieno. Vedete, ragazzi, ho anche una funzione di veggente. Vabbè, dai, ci sta molto. Ti ascoltiamo ancora perché c'è Strappami la pelle a morsi. Strappami la pelle a morsi, 100.000 Carie, Radio Latte Miele, Giovane Fuori Classe. Anche questo è un titolo, che non... Non molto tranquillo. No, non molto tranquillo. Una carezza. Una carezza a mano aperta e molto forte. Uno schiaffo in faccia durissimo. Senti, qui ho visto un nome che mi ha interessato, perché il nome di Mila Moon. Sì. Pezzo prodotto da Braille e Mila Moon. Sì. Mila Moon è questa ragazza che vive in Pennsylvania, a Pittsburgh, vicino a New York. Yes. Come sei arrivato in America? In America sono arrivato, diciamo, conoscendo questa ragazza da YouTube, tramite YouTube, pochissimi ascoltatori. Tra l'altro, da YouTube si parla di 200 ascoltatori, cioè 200 visualizzazioni su un video. E l'ho scoperta, diciamo che ho preso alcune sue idee e poi le ho riportate anch'io, insomma. Funziona sempre così. Poi, insomma, quei ragazzi di Macisse, ci siamo con la mia etichetta, abbiamo contattato e ci abbiamo lavorato insieme a Jacopo, che è Braille. Sai, devo dirti che lei è davvero forte. Sì, bravissima. Ho ascoltato su SoundCloud, yes, perché si pubblica piccole cose. Il mondo sempre quello. E ha un disco incredibile su SoundCloud. Sì, sì. È assurdo che artisti con così tanto talento poi rimangano per pochi. Più che altro anche giovanissima, tanto radare. Ma i giovani sono quelli che hanno tanto radare. Molto. Hai lavorato anche con Braille, che insomma ha fatto metà della musica italiana. Che cosa ha dato in più Mila a questo pezzo? Allora, ha dato una visione sicuramente non italiana, perché quando si fa musica, secondo me, nonostante io sia piccola abbia ancora molto da imparare, secondo me, è importante avere una visione che vada oltre all'Italia. E lei ha portato appunto con la sua musica e le sue idee qualcosa che secondo me molte volte non viene visto, e quindi quando ho sentito qualcosa del genere che non entra di solito nelle orecchie, mi ha fatto impazzire sinceramente. Sì, ha un mondo lo-fi alla Mac DeMarco. Stavo per citarlo, bravissimo. C'era una playlist che si chiamava I am a cyborg but that's okay, su YouTube, dove era pieno di queste cose e ho scoperto un sacco di artisti. No, è quella wave lì genere. Anche un po' lo-fi, Mac DeMarco, bravissimo artista, mi piace tantissimo, veramente. Sì, infatti ci sta anche portare quel mondo in Italia, forse solo Fra Quintale un po' aveva e Fra ha Quintale, ripreso sì. quella cosa. Sì, sì, sì, assolutamente. Tu la porti in un mondo più rock? Sì, mi piace tantissimo. Ti abbiamo chiesto di scegliere una canzone, hai scelto un artista che almeno a livello sonoro è molto lontano da te. Ah, assolutamente. Però penso che ti abbia ispirato come ha ispirato tutti. Sì, assolutamente sì. È artista incredibile che mi ha fatto volare, mi ha insegnato tantissimo. Poi in famiglia si ascoltava solo quello. Mi ha dato voglia per iniziare, mi ha dato la voglia di iniziare a suonare la chitarra. E anche amare il jazz, comunque lui faceva tantissimo jazz e insomma mi ha fatto impazzire con la sua musica tantissimo. I nostri ascoltatori avranno già capito chi è: Pino Daniele, Yes I Know My Way. Yes, yes I know my way. Esatto, siamo qui, Radio Latte Miele, giovane fuori classe. Adesso la prova del nome. La prova del nome. Edoardo, stavi registrando per caso il cantato? Sì. Ah, che meraviglia. Sono contento, lui era a 100.000 carie. Grazie. È finita la nostra intervista, siamo alla fine. Hai cantato molto quest'estate, hai portato i tuoi due singoli su... Sì. Ho visto che hai aperto i concerti di Gazzelle e hai fatto anche il Miami. Gazzelle, Fulminaccio, aperto, ho avuto il piacere. Poi ho avuto il piacere anche di suonare negli studi di Cinecittà di Roma, dove c'era il festival, non mi viene il nome, Spring Attitude. Yes. E è stato incredibile. Poi anche Gazzella, ho avuto il piacere. Vabbè, Cassano Magnago, Cassano. C'era il Voodoo Festival, che è questo piccolo festival, però molto carino. E ho avuto il piacere anche di portare canzoni che non sono uscite, quindi totalmente inedite. Hai avuto modo di rivederti sul palco? Cioè, tramite fotografia? Sì. Come ti mi fa come un ti effetto vedi? Stranissimo. Io ero in cameretta fino a 2 giorni fa e adesso vedermi lì, cioè, mi fa un effetto, cioè, mai avrei pensato. Però la cosa bella che mi piace tantissimo è che quando salgo è, credo, la cosa più bella e che mi faccia sentire vivo che abbia mai provato. Cioè, mi fa sentire vivo, cioè, sento una scarica, una cosa che mi fa dire che mi piacerebbe fare questo. Cioè, non mi sento bene e me stesso in nessun'altra parte. Allora io ti auguro 100.000 date. Grazie, grazie mille. E su Instagram sei solo 100.000 carie, giusto? Solo 100.000 carie. Raga, facilissimo, seguitelo perché allora dobbiamo venirti ad ascoltare dal vivo. Grazie. Grazie, grazie per essere grazie a te. Stato grazie con a me. Voi, grazie.